noi perlomeno, scusaci. Allora, perché? Il ministero fa troppo casino e noi lo facciamo ancora di più. Ministero della fede, noi siamo tanti, siamo tanti, sì. Delineano, sì, delineano. Sì, delineando! Sì, delineando! Sì, delineando! Sì, delineando! Sì, delineando! Sì, delineando! Sì, delineando! Sì, delineando! Sì, delineando! Sì, delineando! Sì, delineando! Si delineano, si delineano, si delineano, si delineano, si delineano, si delineano, si delineano, si delitterati, delitterati, delitterati, delitterati, delitterati, delitterati, delitterati, delitterati, delitterati, delitterati, delitterati, delitterati, delitterati, delitterati, delitterati, delitterati, delitterati, delitterati, delitterati, delitterati, delitterati, delitterati,